Pomeriggio, cari amiche e cari amici di Radio Città Fujiko e di The Festival's Backpack, continua la nostra rassegna estiva Festival Passport per parlare delle rassegne dei festival estivi che si terranno anche in questo 2021. Oggi vi parliamo del Ferrara Sotto le Stelle, un festival che si tiene ovviamente a Ferrara e che è giunto alla sua 25esima edizione. Partiamo però con una notizia che non è proprio delle migliori, nel senso che la data del 1 luglio ha subito un cambiamento, ma andiamo a vedere un po' chi suonerà in questo festival che prende il via oggi, mercoledì 30 giugno, e finirà domenica 4 luglio. Mercoledì 30 giugno la serata prevede Io sono un cane come headliner e in apertura questa band interessante che trovate un po' in giro per vari festival, che sono i Vieri Cervelli Montel. Tutto da scoprire. Giovedì 1 luglio appunto c'è stato un cambiamento, perché purtroppo gli Shame dalla Gran Bretagna non possono venire per le restrizioni dovute al Covid. Al posto degli Shame sono stati chiamati i Soviet Soviet, che apriranno la serata alla band già prevista dei Massimo Volume. Oltretutto un altro cambiamento è che l'evento per la serata del 1 luglio è diventato gratuito, ma su prenotazione ovviamente, perché i numeri sono contingentati. Chi aveva già il biglietto deve chiedere comunque l'ingresso gratuito, poi sul rimborso quello ci pensano loro del festival, perché io non ne so nulla. Comunque venerdì 2 luglio si prosegue con i Post Nebbia, che aprono la serata a La Rappresentante di Lista. Il 3 luglio, sabato, ci saranno Generic Animal, che apre a Mecna, e domenica 4 luglio, opening Laila Alavash a Venerus, grande rivelazione comunque della musica nostrana, contemporanea. Ecco, noi oggi vi presentiamo un'intervista a una band di cui abbiamo parlato, straparlato, forse persino troppo, ma non ci stancheremmo mai di fare quattro chiacchiere con loro. Quindi adesso vi faccio ascoltare la canzone che la rappresentante di lista ha portato a Sanremo, dopodiché vi lascio con l'intervista a Dario e Veronica in occasione di Ferrara Sotto le Stelle, in cui suoneranno venerdì 2 luglio. Ogni volta che nella mia vita non pensavo di essere abbastanza, come un vuoto dentro la mia testa, un incendio dentro la mia stanza, come un sole che non sorgerà dal riflesso dei miei occhi stanchi. Io corro e poi corro e piango e poi piango. Come l'aria che Questa puntata appunto di Festival Passport, abbiamo detto, è dedicata a Ferrara sotto le stelle, che quest'anno, come gli altri anni, porta sempre degli artisti che a noi piacciono moltissimo, e abbiamo scelto di intervistare un gruppo del quale abbiamo parlato anche qualche mese fa, raccontandovi nel disco della settimana il loro album, e che saranno sul palco di Ferrara sotto le stelle appunto. Stiamo parlando della rappresentante di lista. Benvenuti Dario e Veronica a Radio Città Fujiko. Grazie mille, ciao. Prima cosa, come state? Bene. Bene, bene, molto felici dopo la prima data del tour. Ecco appunto, avete iniziato il 24 giugno, esatto, con la prima data ad Arezzo. Com'è stato il ritorno sul palco dopo tanto tempo? Com'è stata un po' l'accoglienza del pubblico? Ma è stato... dobbiamo ancora digerire tutte queste emozioni. È stato sicuramente molto simile a come ce lo ricordavamo. Considera che noi non stavamo sui palchi da quasi 2 anni, da settembre del 2019, e aspettavamo questo momento da tantissimo, anche perché nella routine della pubblicazione di un disco la presentazione al pubblico col tour, con i concerti, è una cosa che ci mancava per chiudere un po' un cerchio. E il fatto che appunto sono live, è vero, si presenta al pubblico, ma c'è una piccola pecca, che è quella di dover stare seduti per il pubblico, sì, ovviamente. Com'è per voi sul palco avere delle canzoni che comunque le vostre canzoni spingono a muoversi sostanzialmente, ma avete il pubblico davanti che sapete che è un po' limitato? Ecco, per voi che siete sul palco, arriva comunque l'energia, riuscite comunque a percepire la presenza di chi vi sta ascoltando? Allora, devo dire di sì, decisamente. Riescono ad ogni modo ad essere assolutamente partecipi, a esprimere con tutto quello che possono, tutto quello che si muove al di sotto della vita, l'energia, le grida di gioia, gli applausi, il canto sfrenato insieme a noi, quindi in qualche modo riusciamo lo stesso a vivere tutto questo insieme. È chiaro che ci rendiamo conto, quando ci scateniamo sul palco, che vorremmo che questa cosa non fosse soltanto una fortuna nostra, ma anche di chi è lì insieme a noi. Qualcuno ci ha detto che ha notato sul palco un po' di rigore in più, e probabilmente anche da parte nostra, percependo questo blocco, diciamo, in platea, ci siamo un po' frenati, perché effettivamente altrimenti sembrerebbe un po' sbilanciato. Non deve essere facile, immagino, come energia rispetto a come siamo abituati ai concerti pre-Covid, diciamo, ecco, chiamiamoli così. Certo. Voi siete anche reduci da un'altra esperienza molto particolare, che poi magari qualche anno fa non avreste mai immaginato, ma siete stati al Festival di Sanremo, insomma, che comunque è un trampolino, diciamo, importante, anche se voi eravate già belli lanciati verso il successo. Ecco, com'è stata l'esperienza sanremese, e cosa vi siete portati a casa di quella roba lì, ecco, di quel festival lì? Ma è stata un'esperienza abbastanza totale, diciamo. Abbiamo passato, diciamo, qualsiasi tipo di emozione ascrivibile all'essere umano, diciamo, l'abbiamo vissuta qui in quei 5 giorni. È vero che qualche anno fa non avremmo creduto di poter essere tra i campioni in gara. D'altra parte, scrivendo canzoni in italiano, abbiamo sempre pensato che anche il Festival di Sanremo potesse essere parte del nostro percorso. Quello che ci siamo portati, cioè quello che secondo me abbiamo realizzato durante quei giorni di grande esposizione con un pubblico mainstream, diciamo così, più largo, è stata una necessità di chiarire qual è la direzione che vogliamo dare alla nostra band, chi siamo in qualche modo. È come se a un certo punto, guardandoti sullo schermo, sul piccolo schermo, ti rendi conto di quale sia il percorso che stai facendo effettivamente. E la risposta qual è stata? Se adesso vi chiedessimo il vostro percorso a che punto è e voi chi siete, cosa ci rispondereste? Ma io ho fatto bene a fare questa domanda. Io risponderei che siamo degli alieni. Che Veronica direbbe degli alieni. Io direi che in qualche modo, diciamo, per stare un po', per parafrasare Veronica, ci rendiamo conto di essere comunque, cioè, nonostante il possibile successo nelle radio o con un pubblico più largo, abbiamo un'indole indipendente che in qualche modo non ce l'abbiamo cucita addosso, che fa parte del nostro DNA, ecco. sapete che Mauro si vanta sempre quando parliamo di voi di avervi visto per la prima, cioè di avervi visto quando eravate ancora dei musicisti di strada, perché vi ha visto a Ferrara Baskers Festival che anni sarà fa. Stato il 2011, credo. Certo, esatto. Una delle nostre prime esperienze a Ferrara. E lì eravate, cioè essere indipendenti lì era proprio insomma, no, la vostra etichetta perfetta, perché eravate per strada a cantare direttamente a un metro dalla gente, no? Insomma, comunque sì. È un po' quello che vi sentite ancora di essere. Assolutamente. Assolutamente sì. Perfetto. È quel tipo di contatto che cerchiamo di mantenere sempre con le persone che ci ascoltano e che vengono ai nostri concerti. Allora, prima di continuare a parlare del vostro tour e di quest'album che è uscito insomma pochissimo tempo fa, vorrei chiedervi di scegliere una canzone da far ascoltare al nostro pubblico tra le vostre. Fare ascoltare O Mau Pa. Sì. Perfetto, anche perché io poi avrò una domanda su questa canzone, quindi allora, è stata perfetto. Un'ottima scelta. L'ascoltiamo assieme e poi torniamo da voi. Non c'è mai tregua, sospesi tra rovi e stelle. Sono giorni che non penso ad altro, che non ho più spazio per me. Sono tua, sono appena nata, ma io sono tutto e sono di più. Io sono tutto e sono di più. Sono io una terra stanca. La mia domanda era Oma o Pa? Cioè, vi state rivolgendo ai vostri genitori in questa canzone? Cioè, la storia di questa canzone qual è? Perché questo disco è bellissimo, i temi sono bellissimi e questa canzone in particolare a me è rimasta veramente impressa la prima volta che l'ho ascoltata. Quindi, qual è un po' la storia? Bene, siamo felicissimi. Ti piace? Impressa. Sicuramente in questo disco ci sono anche i nostri genitori. Ma anche i tuoi, direi. Glielo farò sapere. Ma anche noi che diventiamo padri e madri di quello di cui ci prendiamo cura, ovviamente non soltanto parliamo di figli, è quella sorta di grande tema che è l'eredità, che è quel momento di crescita in cui ci si domanda che cosa lasciamo agli altri, a chi viene dopo di noi, anche a questa terra, che tipo di messaggio vogliamo lanciare, che tipo di responsabilità ci assumiamo. E quindi questi padri e madri di questa canzone sono anche un po' una sorta di primo incontro con quel tessuto sociale che poi alle volte ti imbriglia dentro a degli schemi già preconfezionati o in qualche modo non fai conti con la possibilità unica che tu porti come identità venendo al mondo, no? E quindi è come se avesse già preparato per te qualcosa che però non prende in considerazione il fatto che tu prenderai delle scelte magari totalmente diverse da quelle che sono state le domande di ieri, diciamo. Cavoli, che risposta impegnativa. Impegnativamente bella, no, però. Sì, esatto. Specifichiamo. No, sì, no, dicevo, voi come tematiche comunque siete stati sempre molto, molto impegnati, molto profondi. Parlate molto anche di tematiche che non si incontrano spesso. Per esempio, la sessualità. Ecco, come viene l'idea di parlare di questo tema all'interno dei vostri brani? Che è un tema particolare, appunto. O affrontato da voi in maniera particolare. Ma in realtà, cioè, la domanda me la porrei al contrario, cioè come fare a non parlare di sessualità, considerando che comunque in parte permea le nostre vite, cioè poi ed è un aspetto delle relazioni carnale, infuocato, che comunque sta benissimo dentro a uno scritto poetico, ecco. La poetica della rappresentativista, cioè come dire, gli argomenti sono sempre stati molto legati alle relazioni al corpo, a un modo fluido di immaginare i rapporti tra le persone. È anche molto carnale, è fisico, cioè penso per esempio a quanto nel teatro che abbiamo studiato sia stato centrale il corpo. È un po' come se partissimo sempre dalle pulsioni, dagli istinti, da quelle che sono poi anche le urgenze che il corpo stesso dichiara, quindi sicuramente esiste in modo prepotente anche la sfera della sessualità, cioè è sempre lì pronta a ricordarti che esiste e che ha un ruolo fondamentale. Il corpo in generale, ma in particolare il corpo della donna, comunque soprattutto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, è in positivo e in negativo molto presente, no? Nei discorsi anche collettivi, ecco. Il fatto di fare delle canzoni che riguardano proprio il corpo e la fisicità della donna, le scelte che può fare una donna col proprio corpo, ha portato a delle resistenze rispetto alla vostra musica? Cioè voi avete trovato difficoltà, ecco, nella ricezione di questi temi? No, direi di no, però effettivamente mi rendo sicuramente conto. Sicuramente ci saranno. Sì. Fortunatamente a noi arriva in realtà tanto di positivo. Sì. È un po' come però è anche normale. Magari è una scrematura, esatto. Diciamo, della roba che ci arriva. Sicuramente ci rendiamo conto che quando, diciamo, il nome del disco My Mamma, scritto in inglese, diventa My Mamma, e quindi ragionare sulla negazione di una delle peculiarità, diciamo, secondo la società del corpo femminile, cioè quello di a un certo punto della propria esistenza diventare madri, e negare questo assunto o semplicemente metterlo in dubbio, e quindi ragionare su quella come una possibilità consapevole, non come poi a un certo punto la donna deve fare dei figli, sicuramente è qualcosa di duro, cioè ce ne rendiamo conto anche durante i concerti, a volte ci domandiamo ma questo non sarà troppo, però poi effettivamente è anche il nostro ruolo quello di forzare la mano su certi argomenti, problematizzarli. Sì, esatto. Diciamo che è anche uno dei motivi per cui noi vi apprezziamo così tanto da parecchio tempo. Volevo tornare a parlare un attimo dei live, perché stiamo dicendo appunto avete ripreso con l'attività live e il 2 luglio sarete a Ferrara sotto le stelle. Tra l'altro poi il vostro tour, per il momento pare, si chiuderà il 14 settembre qui a Bologna. Piccola parentesi, ci sono pochissime date al sud, poi magari arriveranno altre date al sud? È la nostra, guarda, abbiamo le dita incrociate anche in questo momento, perché comunque ahimè da palermitano posso, cioè mi fa soffrire tantissimo che il sud comunque, soprattutto rispetto a quello che la musica dal vivo, risulti un passo indietro rispetto al resto d'Italia. Abbiamo avuto difficoltà a trovare una data in Campania, c'è cioè una data in Puglia, a Palermo ci stiamo lavorando, ma c'è sì appunto ancora un po' di percorso da fare, però quindi anche quella è parte della nostra battaglia. Ok, allora pubblico del sud, state tranquilli che ce la faremo. Invece l'altra domanda voleva essere: finito il tour, che è bello pregno di date, bello carico, avete già idea di cosa farete dopo? Vi prenderete una pausa? Andrete in spiaggia magari, non so, vanno in spiaggia un po' a rilassarsi, perché è stato un anno impegnativo, non so. Abbiamo tanti progetti a cui dare spazio una volta finito il tour, quindi in realtà non vi libererete di noi. Per fortuna. E continueremo a raccontare da altri punti di vista questo percorso che stiamo portando avanti, i temi di My Mamma, insomma, ci sono tante sorprese all'orizzonte. Wow, ci avete incuriositi assolutamente. Beh, la cosa che volevamo chiedervi poi per chiudere un po' questa chiacchierata, che è stata molto interessante, con temi che insomma ci tenevamo a affrontare insomma in questa chiacchierata con voi. Se per caso qualcuno è ancora in dubbio invece se venire al concerto di Ferrara o altri concerti, ecco, avete un messaggio da mandare al vostro pubblico o volete convincere altro pubblico a raggiungervi a questa data? Insomma, perché andare a un concerto della rappresentante di lista? Perché un concerto della rappresentantista senza il pubblico non è nulla, da un lato questo, e quindi ieri ci siamo resi conto questo, di quanto poi il pubblico sia fondamentale nel questo rito collettivo che si viene a creare, e dall'altro perché effettivamente abbiamo messo tu uno spettacolo. Venire a un nostro concerto ti cambia la vita. Wow! Veronica, sempre più diretta. Perfetto, allora grazie mille, noi eravamo già convinti, però insomma era giusto anche dare spazio a chi aveva qualche dubbio. Vi ringraziamo molto, vi chiediamo se avete una canzone con la quale vogliamo chiudere questa intervista, se avete voglia di sceglierla e spiegarci il perché. Ma io direi Alieno. Alieno. Alieno, perché è molto divertente, visto che non posso chiamare ad uno le persone che sono nel pubblico. Sto cercando un nome alternativo per chiamare questa piccola comunità che gira insieme a noi. Durante la prima data del tour ho provato a chiamarli alieni, si sono sentiti tutti molto felici di questo appellativo, e allora molto probabilmente ci sono molti alieni che girano insieme a noi, quindi vorrei dedicare questo brano a tutti gli alieni che ci ascoltano. Perfetto, grazie mille allora ragazzi per la disponibilità e beh, in bocca al lupo per il vostro tour. Non so se si dice in bocca al lupo, si può dire? Sì, si può dire, ok. Allora in bocca al lupo per il vostro tour e per tutte le date estive. Viva, grazie. Grazie, ciao. Mille. Ciao. Sono uno scheletro, faccio l'amore però mi viene il vomito. Fuma la mia pelle come fuma la mia pelle. Dormo poco, lo so, è un lato erotico. La faccia tosta ce l'ho, strette allo stomaco. Non so come dirlo, ma tu fammi sfogare per la idea. Un attacco d'ansia, continuo a respirare. Cattivi pensieri, buoni da mangiare. Solo che non si potrà sapere mai che sono un alieno. Sono più forte del piacere, sono l'amore. Sono più forte dell'amore, sono il dolore. Sono più forte del piacere, sono l'amore. Sono più forte del dolore. Prendimi come ti va, sono bellissima. Mordo la gente che mi forte. Sono più forte del piacere, sono l'amore, sono più forte. piacere, sono l'amore, sono più forte